Letture di Radio 24. La ben nota passione dei cinesi per tutto quello che è Made in Italy adesso diventa un reality, dove il bel paese si trasforma in un set per aspiranti top model dagli occhi a mandorla. Ormai ai cinesi riesce meglio anche il Made in Italy, o perlomeno la sua promozione. Steven Luo è un 29enne cresciuto nelle campagne dello Zhejiang e rinato nella Chinatown milanese. Vivo tra Milano e Pechino, ma sto mettendo su casa a Canton, dice Kino su iPhone e BlackBerry. Steven ha 5 aziende che con 60 dipendenti macinano marketing facendo la spola da e per il Far East. A 20 anni, per la sua comunità di immigrati, aveva ideato il concorso Miss Cina in Italy. Giunto alla soglia dei 30, lancia per Guangxi Television, canale satellitare statale con un bacino di 700 milioni di spettatori, il reality Dream Come Top Model. 16 modelle cinesi che si sfidano sullo sfondo di paesaggi, città, ma soprattutto marchi italiani. Un concorso che in 6 mesi ha coinvolto centinaia di ragazze della madrepatria. E allora che ci fanno le mannequin dagli occhi a mandorla, a spasso dalle Marche a campione d'Italia? In Cina l'Italia è un mito, taglia corto Steven. Dove la trovi una storia così? L'antica Roma, il Rinascimento, la Milano anni Ottanta. La sintesi è ardita ma efficace. Il mix tra bellezze cinesi e ambiente italiano ha funzionato così bene che invece delle 10 puntate previste ne trasmetteremo 24. Non è puro show. Il Made in Italy a destinazione cinese vale 17 miliardi di euro l'anno, con un balzo del 25% nel solo 2011, e settori come l'abbigliamento, l'alimentare e l'arredo che colonizzano i consumi della nuova classe media. Con il suo reality, Steven Luo conferma e rilancia il trend. Quando si muovono i francesi, si muove la Francia. Quando si muove un'impresa italiana, spesso è sola. Per questo ho puntato sul paese prima che sui marchi. Vogliamo mostrare i prodotti italiani nell'ambiente in cui sono nati. Le ragazze hanno impastato uova e farina, fatto vendemmia di rosso piceno, sfilato in Ferrari lungo il lago di Como, calzato il tacco 12 del main sponsor Fabi e animato il centro di Milano durante la settimana della moda. Alla fine si è imposta una 18enne di Pechino che dell'Italia dice di amare soprattutto l'architettura. È il primo evento cinese interamente girato in Italia. Ma quando ho chiesto un contributo all'ente nazionale del turismo, mi hanno risposto picche, scuote la testa Steven. E picche pure dalla regione Marche. E allora torniamo al punto di partenza. Che ne è del Made in Italy? Perché non sfruttare al meglio percorsi ibridi come quello di Steven? Il suo è un innamoramento di lunga data. Sono arrivato in Italia a 14 anni e dopo le medie mi sono iscritto a una scuola di moda. Lì ho capito che mi sarei dedicato allo stile italiano. Come tanti immigrati di seconda generazione, il giovane manager sino-milanese è il ponte ideale tra noi e loro. Senza traduttori, è facile fallire lo sbarco in Oriente. C'è chi ha modi sbrigativi, ma da noi vanno curati i rapporti personali. O chi chiede cifre esorbitanti senza la qualità necessaria. Ma in Cina, dagli italiani, ci si aspetta la perfezione. Meglio capirle una volta per tutte certe cose. Perché Steven Luo non è molto originale quando dice che la storia è solo all'inizio. Dopo il 2008 tutti si sono resi conto che si cresce solo nel Far East. Il miliardo di cinesi va molto più veloce del miliardo di indiani. Ce lo fa capire anche questo reality di bellezze in trasferta. Negli anni 90, la prima impressione italiana di Steven furono le coppie che si baciavano per strada. Da noi era impensabile. Nel 2012 la puntata milanese di Dream Come Top Model ha visto le concorrenti in bikini scorrazzare per San Bavila. Strane ragazze, strana idea di Milano. Da novembre a gennaio, su Guangxi Television, il Made in Italy si promuove anche così. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Raffaele Oriani, Grande Sorella Cinese, dal numero di novembre del magazine Il.